ma anche le senove andavano bene quando c'era il vento. Benissimo Gianpa, sto dicendo che era perfetto. Sicuro che le regolate sono state fatte bene. E vabbè, non esce bene. Poi guarda le FM. Ascolta già, fatti risulta a te. Uno non duro che fate così. Non mi capisci? Qualcuno c'è usato via, da poco magari. non è che sono andato in B, oppure magari non è determinato, avevo intenzione di decidere quello lì, e c'avevo anche qualche altra idea, la verità, eh. Volevo prendere un'altra cosa, un quadro in banda, volevo prendere, capito? Ma dopo se magari la 23 non funziona, non mi perdo assai, era un problema allora, capito? Yeah. è più alto, no? Siamo rientrati. Radio Sky 6, di modulazione, ma per più piccolo è radio molto basso. Sentivo. Senti cupo? Guarda, va bene, 1, 2, 3, 4, 5. No, non è positivo. Ok, no, perché mi stavo un po' preoccupando, un po' di gente mi sta dicendo sto facendo di nuovo cupo. Prova adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. A parte il discorso che questo qui è un mic normale, se la testa se per radio bassa, senti, Massimilia. No, positivo, la radio adesso è salita, e sei salito anche di segnale. Ok, dai, allora quel mic non si abbina bene bene a questa cosa qua, dai, ci devo fare un altro mic, ci devo fare un altro spinotto, dai. Va bene, dai, ok, no, non pensavo che fosse la radio. No, va bene, adesso col mic normale hai migliorato dal giorno alla notte, adesso radio 5 anche se, attenzione, la modulazione non è perfettissima, Non è questa grande radio, però è radio 5 che si sente molto meglio dell'altro. Poi Massimilia ci mancherebbe, ma me la succiardo, no, perché questo qua è il mic suo, al mare suo, ok. Entrerebbe un tunnel adesso. Positivo. Oh, già fa, doppio rumo, andatosene. Capito? Da già, l'ho abbassato un altro pelino, guarda per adesso sì. Oh, adesso lo lascio così allora. Va bene, ok, guarda di nuovo, già ti ho fatto un passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, adesso va bene, adesso ci sono. Prima era troppo occupa, troppo in base c'era. Positivo, Gianluca, da te? Ci sto ascoltando con la prestata radio e ti piace di più, è più comprensibile, diciamo, ed è ascolto molto meglio di come ti ascoltavo nell'altra. Tutto lì. Ma anche tu con l'altra mi hai detto che c'avevo un po' di cuffo. Ascoltandomi adesso tu con quella radio, è andato via questo cuffo e rimasto. Aspetta, devo cambiare, adesso devo spezzare tutto un attimino. Positivo, vabbè, a Giampaolo non glielo chiedo perché ha detto che mi ascoltavo anche bene, senza cambiare nessuna radio. Fidati che va meglio adesso. Fidati che va meglio adesso. Positivo, Gianluca, cambiato? Leggermente, sì, la sento meno occupa, diciamo, rispetto a prima. Questa è uguale a quella tua, eh. Ma dico, quindi è arrivato ancora quel cuffo? Leggermente, io lo sento, ma non come prima, praticamente, capito? Con l'altra, invece, ti ascolto bene, è un'altra ricezione, già. Se faccio questa operazione, va via del tutto il cuffo. Ma ti sei allontanato? No, non mi sono allontanato. Dai, la devo lasciare così, in questa posizione, vero? Ma sono così, che io ti ascolto bene, io ti capisco. Guardate che la criticità esci, vecchio. Ti ascolto, dai. Papà, l'ho ritornata come la prima, là. Così va bene? Oh, Gianni, doppio ru. Vedi un po'? Io la sentivo meglio prima. Guarda, così è come la prima, vedi un po'? Così è chiara. Allora la lasciamo così, no? Va bene, va bene. Sincero, c'era l'equalizzatore 2000 che era tutto al massimo, invece io non lo porto tutto al massimo, hai capito? Lo metto due tacche prima di arrivare al massimo e così so che va bene. E infatti gli ha giocato così e comunque va bene, già va bene per tutti, dai. Ok, va bene, riprendi Gianluca. Va bene, io sto lavorando su questa attiva per scaldare. Da qualche giorno che non lo usano in trasmissione, la ricezione già le sono sempre tutti. Tutto lì. Guardi Gianluca, mi stavi dicendo poc'anzi che non so cosa volevi fare. Anche se non è chiaro che le sorelle antipatico, perché ognuno poi la pensa come vuole, però io al mio orecchio lo sentivo così e ho detto quello che sentivo, e sono sempre sincero, dico sempre le cose come le sento, i segnali come li vedo e tutto. A contrario di molte persone che ti dicono magari che stai facendo male, che stai facendo bene, e, diciamo che è un po' antipatico, perché sembra quasi che gli voglia dire una cosa per farlo stare male o qualcosa. Io gli ho detto solo la verità, lui mi ha chiesto come stavo facendo, io gli ho detto mi sento un po' tutt'olino, non è che poi ognuno come la pesa, come in base a quello che dicono gli altri si regola. Positivo, allora, Roger, così ancora più voce chiara. Positivo e caparoggio, le cose sono quelle, e ruspanti, cambio, cambio, cambio. Cavua, cava, cavua, aspetta, ne togliamo l'ecco, se ancora cavuca. Positivo, chi è che parla in tedesco o francese? No. E voi esti, esti di pomeriggio. È un pochino. Chi che... che mutua? Un limone, io no, è già piantato un limone. Anche a quattro stagioni era un limone. Tu è caparruccio. Però va bene, gli anni tu più, vedi un po' cambio. Bella, bella, bella, bella. Molto forte. La radio è, di, è un po', diciamo che è un po' rauca, giusto? Ma io la faccio un po' più chiara, capisci? Un po' più chiara. Ti piace il 48 fatto così a te? Io... no, già così, positivo e caparrocio, dai, bella, bella, bella, bella truppa, cambio, non è più chiara. Positivo e caparrocio, dai, la cosa è meta, meta, meta, sempre forte anche tolto tutto ecco e tutto quanto, Gianni, e oh, Giampa, da te è sempre uguale, anche se togliamo tutto. Positivo, dai, positivo perché ho fatto la voce chiara. Ma chi è Gigi? Allora, così lontano, guarda se parlo lontano come, se parlo... Dipenderà come parlo io, vedi, se parlo così la voce è più chiara. Sì, no, però è così veloce, grazie, sono semplice. Prova Gigi, perché stavo parlando per verticale e non stavo ascoltando. Se vuoi ti che tu ascolti gli unici, c'è bello qua, quanto gli unici c'è bello, già che tu ascolti gli unici c'è bello. Sì, che lo ascolto, ma sta facendo a tratti. Sì, perché io parlo a tratti, io Ciccio Bello parlo a tratti. Ah, così, ma stavi strappando. È perché la voce mia è così, capito? Quella di Ciccio Bello è così, capito? Eia, ma eia, non è la voce, ci stava strappando l'apparecchio, pra pra pra. Ma guarda un po' se sta strappando pure adesso l'apparecchio, sta strappando? No, no, adesso no. E perché ma siete lui, capito? O già mi copia un ru. È un po' difficile per i babuzzi di parlare all'apparato. Positivo e caparrocio, se lui parla al telefono è verticale, non spreca la parola, ma quando modula sul 45 è chiaro come la cosa, non so come mai, capo, non è più barbuziente, ma quando parla in verticale non riesce a spreccare la parola. L'emozione le fa giocare questo scherzo, dai, è timido magari. Ma quando parla normale, lui parla così, capito? Il piano che lo alzo con il piede sbagliato, gli devo fare un modulo di più, più, più, più, più. Tutta la piazza di vino? Oggi? Io avevo un amico che era andato a scuola per imparare a parlare bene e andava da queste suore e gli faceva proprio la lezione per imparare, era babbuziente molto e poi si è rimesso in sesto, parlava bene, normale, là. Un giorno ha trovato una di queste suore dopo anni, gli ha detto, e beh, più babbuziente non sai, ha cominciato a non fare babbuziente. È positivo, no, no, ma questo... diciamo entrava come Nicola Meclare, ce l'avrei sentito tante volte, no? Entrava come nei coloni, caricato, c'era una voce splendida, il motore va bene, ma se parlava leggermente con la voce sua, normale, no, no, era balbuziente. Anche al telefono lì, non riesce a capire un accidente perché è balbuziente, e poi quando parla proprio fa fatica le cose del collo, come si chiama, si rigonfia, cerca di spiccare la parola, non ci riesce, mi capito, in verticale. Fisica così positivo, ma quando modula sul 45 che parla, che entrava come Nicola Miclare, se te lo ricordi, che entrava con Luca, no? Entrava come Nicola Miclare, e cari, quando sentiva Luca, mamma mia, tutti quanti, poi entrava come Iuri Cicciobello ed era un'altra persona. Ma infatti io pensavo fosse due persone, davvero. Vabbè, comunque noi ne avevamo uno di amico che si chiamava Franco Favedarracchi, lo chiamavamo, anche la balbuziente. E una volta l'abbiamo trovato e l'abbiamo invitato in pizzeria, lui era imbarcato tanti anni, anche doveva dirci una cosa, è stato poi è riuscita la parola tutta storpiata. E tutti si sono girati perché aumentava sempre di più il volume, quando non riusciva a parlare aumentava la voce. È positivo, è quando faccio la voce da donna. E ti ricordi, tu no, non mi hai riconosciuto, ma poi ti sei offeso perché ti dicevo le cose un po' pesanti. E un giorno stavo sempre la camionabile, io quando faccio quel viaggio per dentro limite, e c'eri tu in stazione e ti facevo la voce da donna, e tu poi a un certo punto ti sei offeso, dice, mi sembri che non tanto donna, prima ci stavi, poi ha detto mi sa che questo non mi sembra proprio, io non c'ho niente a che fare con certa gente che appartiene all'altra sponda, all'altra parrucchia. Ma è sicuro che lui? Certo, sei sicuro. Ti ha portato fino a Porto Torres, no, non è sicuro. Ha pagato. Ma vabbè. Andare. Luca. Luca Tulipano. Se no la volta di coso di Pierpaolo e Falchetto, di Sure. La volta è una donna o... che magari le cose te ne è incazzato, c'era la febbre di Giampaolo, Pierpaolo, cazzo. Poi gli ho detto che io non ci credeva lo stesso, non ci voleva, è possibile che faceva quella voce lì, dice, sembrava, dice, gallurese, un accento gallurese, una voce tutta diversa, strana, era difficile che ero io. Vabbè, si può cascare, sì, anche Luca fa voci diverse. Cagliare che va all'accento Puglio Torriso e si richiama subito, e quello ve lo frega a lui. No, Luca Manicù. Ah, Luca Manicù, ma no, non ti credi del manco, io a Luca l'ho fregato per di volte stesso. Fa Massimo. Claudio, perché a Claudio non l'ho fregato, un paio di volte. Claudio per di volte ha fatto la voce da donna e c'è cascato sia lui, Falchetto. La faccio meglio. Tanti che ho arrivato io via. Ma non se mi ricordo. Ma è Giampaolo? Ah, io sapevo me la vecchia la zia. Yeah, on the car wheels kind of rolling through it. I'll keep going for a few minutes and start to notte fa, stavano organizzando un pranzo e hanno detto a tutti tranne che a me. E allora io sono entrato, gli ho fatto a Beffa e non mi hanno riconosciuto, poi che gliel'ho detto, c'è possibile, c'è con la voce tua che c'hai, che riesci a fare una voce così, così sottile, così, tanto, ma gli ha detto tutti i colori, e vabbè, erano amici che conoscevo, no? Ma gli ho detto tutti i colori che non mi avevano invitato a me, che, ma gli ho fatti a, tanto, ma proprio... Oh, un attimino di quel risparmio. Sì, tiro. È freddo, è fresco, freddo, freddo, freddo. Ma dovevo schiarire questo barocchino, non mi piace. È troppo caldo. Cambiamento non è molto. detto adesso. Da così, vedi, così è un passaggio e così è un altro passaggio. Ha cambiato? Beh, si sente l'eco finale, ecco, sì, sì, ha cambiato un po', si sente più amplificato del QE. E noi lo chiudiamo leggermente, così lo teniamo, tutto sotto controllo. I vatti sono abbassati, li possiamo pure appena aprire, vedi, l'abbiamo anche appena aperti, vedi, quasi. Ciao raga. Ok, io adesso ce la posso cominciare su quella 2, mi piacciono più lisce le modulazioni, anche se io ogni tanto lo uso, giusto per magari per riuscire più forte il raggio all'auto, dunque così almeno si capisce bene bene la modulazione, se è una buona modulazione, oppure c'è la parte positiva, ecco, con l'eco invece storpia tutte queste cose qua. Positivo, allora mi parliamo così, ma dovrebbe essere buona, così dovrebbe essere buona con questo microfono, sicuramente al 99%. Questo è un palmare normale oggi. Microfono normale, dai. Questo è un altro microfono, l'ho preso sul 48, il suo originale di questo barattino che ho adotto da 6 anni e quello che avevo prima. Va benissimo, giustamente prendo in considerazione la consapevolezza che è un palmare normale, giusto? Tutto lì. Sì, giusto, questo invece è quello suo, il microfono, il suo originale che ha adotto da 6 anni questo baracchino, questo è il suo, però secondo me questo è stato sempre il numero 1. Giusto Gianluca? Sono le modulazioni che io ti sento sempre di più, perché te, quando fai le prove io non è che ti sento con i microfoni amplificati, che questo è questo, questo è questo, questo è quell'altro, ti sento sempre che mi fai le prove, che vuoi le prove sempre con un microfono normale, per me va bene.